prendiamo le nostre Bibbie e vogliamo stamattina imbatterci in un libro della Bibbia molto particolare. Oggi vogliamo imbatterci in quello che è uno dei libri probabilmente il più particolare della Bibbia. Sto parlando di Ecclesiaste. Voglio leggere con voi un passo dal libro di Ecclesiaste, forse ne leggeremo anche due se avremo modo e tempo. In questo libro ci viene mostrata la fragilità della vita. Se vogliamo, questo è un libro che è filosofico, precede di secoli, molti secoli, i filosofi greci, ma ha lo stesso tipo di linguaggio. È un monologo di un saggio che ci viene presentato dall'autore del libro. L'autore del libro non è colui che fa il monologo, ma è colui che ci riporta questo monologo e fa una prefazione, fa una conclusione l'autore. E in questo monologo noi troviamo proprio uno sfogo, un pensare ad alta voce di un saggio. Molti attribuiscono queste parole al re Salomone. Io credo che sia il re Salomone, anche per la descrizione che lui fa delle ricchezze, del fatto che è un discendente del re Davide, però non è certo che sia il re Salomone. Però questo discorso che ci viene presentato nell'Ecclesiaste è un discorso che turba, perché ci presenta la vita come una vanità. Tutto è vanità, tutto è fumo, tutto è passeggero, ci mostra tematiche molto pesanti come la morte, ci presenta le stagioni come andremo a leggere, ci presenta quanto è inutile il nostro affaticarci, affannarci in questa terra. È molto difficile da interpretare questo libro e se non viene contestualizzato nell'intera scrittura biblica, nell'intero numero dei libri biblici, può portarci davvero lontani da quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. Quindi va contestualizzato nell'intera scrittura e dobbiamo comprendere quello che è il vero messaggio che questo saggio vuole trasmetterci. È un monologo che tende a portarci ad avere più domande che risposte, a farci delle domande che sono giuste, a renderci conto che è passeggero tutto quello che viviamo su questa terra, che è inutile darsi da fare per una carriera che poi svanisce, che le ricchezze sono passeggere, che la maggior parte delle cose che viviamo su questa terra sono passeggere. E poi ci presenta alcune poche ma valide e profonde verità. E sicuramente ciò che poi dà una valida interpretazione di tutto quello che è il monologo che troviamo nell'Ecclesiaste sono proprio i versi finali che andremo a leggere. Però ecco perché voglio leggere dal libro di Ecclesiaste, perché domani comincia una nuova fase. Da domani saremo nella fase 2 e la fase 2 è diversa dalla fase 1. È diversa per alcuni, è identica per altri. Però è una fase e ho dovuto pensare a questo termine, fase. L'ho cercata nel dizionario e la fase è un periodo, lo stato di qualche cosa che segni un cambiamento rispetto a un periodo o stato precedente. E in generale ciascuno dei vari momenti di uno sviluppo. E noi viviamo di fasi, di stagioni che dipendono da scelte che noi facciamo, quindi dirette conseguenze di determinate scelte che facciamo nella nostra vita, ma tante stagioni e tante fasi che non dipendono da scelte nostre, ma dipendono da altri fattori che non sono nelle nostre mani, come anche quello che stiamo vivendo, no? In questo periodo noi stiamo vivendo delle fasi che nessuno di noi ha scelto. E che se qualcuno potesse scegliere, io credo che la maggior parte di noi sceglierebbe di evitare come fasi, ma siamo costretti a vivere queste fasi e la vita è così e l'Ecclesiaste ce la presenta in questa maniera. Leggiamo un famoso passaggio di Ecclesiaste nel capitolo 3 dal versetto 1 dove c'è scritto che per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere, è un tempo per morire, un tempo per piantare, è un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Quanto è contemporanea la parola di Dio? Quanto è vero questo? Questo è il tempo nel quale noi dobbiamo astenerci dagli abbracci. Ora, non so per voi, ma per me la fase 2 è determinante, perché domani, da domani, avrò modo di rivedere la mia fidanzata. E non la chiamo più fidanzata, oramai per me è la mia congiunta, ok? Lei è la mia congiunta e domani ho il diritto di vederla, ho il diritto di abbracciarla, ho il diritto, se lei me lo permette, di baciarla. Però io chiedo il vostro intervento da questo punto di vista, perché lei è intenzionata a mantenere la distanza di sicurezza e indossare ancora una mascherina. Quindi, per piacere, se avete modo, potreste persuadere Giorgia domani ad abbracciarmi e a darmi un bacio. Per piacere, ve lo dico, perché ho già l'incubo che al giorno del matrimonio, al posto di alzare il suo velo, dovrò alzare la sua mascherina per baciarla. Quindi, almeno domani, per piacere, Giorgia, dammi un bacio e aiutatemi, Chiesa, a fare in modo che domani non ci guardiamo a distanza e dietro una mascherina. Però, a parte gli scherzi, no? Non è così vero. Questo è un tempo nel quale dobbiamo astenerci dagli abbracci. Che mancanza questa! E poi va avanti l'Ecclesiaste dicendo: c'è un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare è un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che cosa sta dicendo questo saggio, il saggio di Ecclesiaste? Beh, sta dicendo che noi viviamo in questa terra diverse stagioni. Credo che siamo tutti noi consapevoli che su questa terra, nella nostra vita, viviamo diversi periodi, viviamo diverse stagioni. Viviamo diverse fasi. E se ti guardi a ritroso è proprio così. Se ti guardi anche nel presente è così. E sarà vero per il tuo futuro e per il mio futuro. Ci saranno stagioni piacevoli, come viene descritto, un tempo per ballare. E ci saranno stagioni e periodi di lutto, per il cordoglio, per il pianto. C'è tutto questo nella vita che viviamo su questa terra. E io stamattina, è intenzione mia, prepararci, alla luce della parola di Dio, a vivere ogni fase, ogni stagione e ogni tempo della nostra vita in una maniera equilibrata e sana. Perché vedete, la parola di Dio non fa altro che presentarci storie, non fa altro che presentarci personaggi biblici, non fa altro che presentarci il percorso stesso del popolo di Dio per farci capire come affrontare le diverse stagioni nelle quali ci imbattiamo nella nostra vita terrena. Se pensate a uno dei passi più incoraggianti della Bibbia, no? Il Salmo 23, che tutti noi conosciamo, il Salmo 23 ci presenta il fatto che abbiamo un pastore che è Cristo Gesù, che è il nostro Dio, e lui ci guida verso verdeggianti pascoli, quindi ci porta a nutrirci di cose buone e acque calme. Però c'è anche scritto che lui ci aiuta ad attraversare la valle dell'ombra della morte. Vedete che torna questo concetto. Ci sono stagioni, ci sono fasi. Se vogliamo, ci sono anche territori nei quali ci troviamo nella nostra vita. E ci troviamo ad attraversare tutto questo. Ci sono storie nella Bibbia, quali il personaggio biblico di Giuseppe, che ne passa di tutti i colori, per poi avere un pieno riscatto e poi seguire il fatto che ogni fase, ecco, parliamo di fasi, ogni fase della sua vita ha avuto un suo perché. Però ci sono state delle caratteristiche specifiche nella vita di Giuseppe, come nella vita di Giobbe, se pensiamo, no? Questo uomo di sofferenza che ha vissuto anche lui delle stagioni, delle fasi. E che fasi? E possiamo dire lo stesso di Gesù, possiamo dire lo stesso dell'Apostolo Paolo. Cosa avremmo da imparare da questi personaggi? Beh, un insegnamento che è costante nella parola di Dio è che noi dobbiamo far nostro affinché in ogni fase, in ogni stagione rimaniamo stabili e rigogliosi e portiamo frutto e scegliere delle giuste amicizie, avere delle sane relazioni. Ve lo voglio dimostrare leggendovi il Salmo 1. Il Salmo 1 dice: beato l'uomo, in altri termini felice l'uomo, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Vedete, i primissimi versi di questo bellissimo libro della Bibbia ci parla di scegliere le giuste compagnie attorno a noi. E poi aggiunge nel verso 2: ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto, ascoltate, il suo frutto nella sua stagione. Che bel esempio! Dio vuole che noi siamo come un albero piantato vicino ai ruscelli e nella giusta stagione portare frutto. E poi aggiunge: e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Dio vuole che tu sia un albero e che le tue radici siano ben fondate, ben radicate, che possono attingere dall'acqua e rimanere rigoglioso, vigoroso in ogni stagione, i rami che rimangono verdi, le foglie che non si appassiscono e poi il portare frutto nella giusta stagione. Questa è la volontà di Dio, non è meraviglioso? Dio ti ama e vuole il meglio per te. Voglio ricordartelo stamattina, Dio vuole il meglio per te e sfrutterà nella tua vita ogni stagione per prepararti a portare frutto. È proprio questo quello che accade agli alberi, no? Non puoi eliminare la stagione dell'inverno, anche quando nell'inverno pochi alberi portano frutto, ma al suo perché quella stagione e prepara l'albero a portare frutto. È determinante, ogni contadino ti dirà che l'inverno è determinante per il frutto che poi uscirà in estate, o in primavera o in autunno. Ogni stagione ha il suo perché. Non rigettare la stagione che stai vivendo, non arrabbiarti della stagione che stai vivendo e soprattutto non confrontarti con le stagioni degli altri. Quanta amarezza, quanto dolore noi viviamo perché ci paragoniamo e vediamo i successi degli altri. I social funzionano purtroppo troppo spesso male da questo punto di vista, perché ci portano ad essere esposti ai successi degli altri o ai presunti successi degli altri. Perché nei social possiamo decidere di essere quello che vogliamo e quindi ognuno può mostrare la parte migliore di se stesso. E quando poi vediamo il profilo di qualcun altro che ha qualcosa che noi non abbiamo, questo alimenta in noi invidia, questo alimenta in noi rabbia, questo alimenta in noi gelosia, soprattutto se noi stiamo attraversando una stagione difficile o non viviamo quello che l'altro sta vivendo. Non paragonarti nelle stagioni, hai una tua stagione, hai una tua vita, hai un tuo percorso e Dio ha un proposito specifico per te. Amen. Dio vuole che tu porti frutto, ma dipende dalle relazioni che hai, dipende dalle sane relazioni che hai. Se vogliamo capovolgere quello che c'è scritto nel primissimo verso del Salmo 1, beato è l'uomo che cammina secondo il consiglio dei saggi. Ribaltiamolo. Se qui dice che beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio dei saggi, cosa potremmo fare per camminare bene e per essere beati? Beh, camminare secondo il consiglio dei saggi. Fatti consigliare da persone sagge, da persone che hanno competenza, che hanno esperienza, che hanno maturità nella fede. Fatti consigliare da saggi. Poi dice che non si ferma nella via dei peccatori. Beh, in altri termini potremmo dire che cammina nella via dei santi, Vi piace questo ribaltamento del senso di queste parole, messo in termini di sfida, di obiettivi da raggiungere? Scegli di camminare con altri santi, in una via santa, con persone che ti invitano a santificarti, con persone che ti correggono, con persone che ti aiutano ad essere una persona migliore. Che non si siede in compagnia degli schernitori, beh, qui potremmo dire che è in compagnia di persone che edificano. Il contrario di schernitore è chi edifica. Sane relazioni. Scegli sane relazioni. Scegli sane relazioni per affrontare ogni stagione nella maniera migliore. E con questo non voglio dire che devi cambiare le tue relazioni. Perché sennò, allora ogni relazione non va mai bene. Anche all'interno della Chiesa. No, io ti invito a portare le tue relazioni a una statura superiore. Ed è una scelta tua, non dipende tutto e sempre dagli altri. Sei tu che puoi scegliere di chiedere al tuo fratello, alla tua sorella, di essere un consigliere per te. Sei tu che scegli di invitare il tuo fratello, la tua sorella, ad essere una risorsa per la tua santità. Sei tu che scegli di pilotare le conversazioni non verso lo schernire, il criticare, il mormorare, lo sparlare, ma verso l'edificare, l'incoraggiare. Sei tu che puoi pilotare, puoi interrompere conversazioni, puoi dirigere conversazioni in altre direzioni. Non devi per forza cambiare le relazioni, ma puoi cambiare la condizione di queste relazioni. E questa è una scelta che io ci invito a fare. Questo è un invito che io scelgo di fare per me stesso. E io sono molto carente da questo punto di vista. Io voglio crescere in questo. Io voglio essere più responsabile nelle amicizie che ho, di dire: vogliamo fermarci a pregare? O puoi pregare per me? O se vedi qualcosa che non va in me, potresti aiutarmi? Vedete, l'Ecclesiaste presenta proprio anche questo aspetto, l'aspetto delle sane relazioni, e presenta il fatto che la solitudine è un grosso problema. Ve lo leggo velocemente, anche se non lo vedrete proiettato. In Ecclesiaste al capitolo 4, sono versi che conosciamo molto bene, dice: due valgono più di uno solo, perché sono ben compensati, ricompensati della loro fatica. Infatti, se uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Ora, non voglio deludere tutte quelle coppie e tutti quei matrimoni che sono stati sigillati con questi versi, però posso svelarvi un segreto di questi versi. Questi versi non parlano del matrimonio. Possono essere abbinati al matrimonio, ma non parlano di matrimonio. Parlano di una compagnia, parlano della fatica di due lavoratori che stanno insieme, parlano di due persone che si schierano insieme per sopraffare, tener testa a chi viene contro. Parla di una compagnia. Anche quando si parla del riscaldarsi nel letto, non sta necessariamente parlando di marito e moglie, sta parlando di due persone. E noi sappiamo che nell'antichità le persone dormivano anche molto spesso all'aperto, e quindi lo stare insieme dava conforto e riscaldava reciprocamente le persone. Non rimanere solo. Scegli di avere persone al tuo fianco e eleva la condizione delle tue relazioni. Ora io voglio incoraggiarti a non rimanere solo se sei in una stagione difficile. Non rimanere solo perché la tua solitudine è autodistruttiva e aggiunge male già al male che stai vivendo. Non rimanere solo quando sei in una stagione difficile. Lasciati aiutare. A volte nelle stagioni difficili dici o diciamo, no? Molto spesso non c'è nessuno che è interessato a me. È una tua scelta che altri possano interessarsi delle tue debolezze e della tua stagione difficile. È una tua scelta coinvolgere fratelli e sorelle ad aiutarti in preghiera. È una tua scelta che qualcuno venga in tuo soccorso. Non attribuire sempre solo la responsabilità agli altri. Sii autore delle tue stagioni, sii protagonista della vittoria piena che puoi prendere in ogni stagione della tua vita, anche le più difficili. Lasciati aiutare, renditi vulnerabile. Quanto è difficile aprire il nostro cuore e dire io non sto bene, io sto soffrendo per questa cosa, o questa cosa mi ha ferito, e condividerla con qualcun altro. Scegli di non rimanere solo, apri il tuo cuore. Se vivi una stagione buona, scegli anche nella stagione buona di non rimanere solo, perché la tua solitudine significherebbe essere un egoista. Posso dirtelo schiettamente, sinceramente, perché se stai bene e rimani solo, vivi egoismo. E addirittura Giacomo reputa questa un peccato. Dice, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi se stai bene e puoi fare del bene ad altri, non isolarti, aiuta il tuo fratello, aiuta la tua sorella. Metti a disposizione il tuo tempo, metti a disposizione la tua preghiera. Metti a disposizione il tuo ascolto, metti a disposizione i tuoi talenti, le tue capacità, o sviluppa nuovi talenti e nuove capacità. Magari ti senti incapace di aiutare un altro, comincia a farlo. Se sai che puoi farlo, se sai che sei in una condizione di stabilità, questa è la stagione giusta per aiutare chi sai che è in una stagione difficile. In questa fase 2 ci sono persone che stanno assolutamente bene, probabilmente che stanno addirittura meglio rispetto alle fasi precedenti. Ci sono altri che stanno soffrendo. Chi sta bene soccorra chi sta male. Questo è un principio biblico di generosità. Piangi con chi piangi, ridi con chi ride. Nella tua stagione buona, stabile, aiuta chi è in una stagione difficile. In tutto questo io voglio ringraziare i capogruppi, io voglio ringraziare i gruppi che abbiamo in chiesa, perché se abbiamo dei gruppi in chiesa, che noi chiamiamo gruppi in casa, però oramai non possiamo riunirci in casa, quindi possiamo ribattezzarli gruppi da casa, ok, non in casa, da casa, possiamo collegarci e vederci e incoraggiarci, e il senso dei gruppi familiari è proprio questo, creare contesti nel quale c'è il reciproco aiuto, contesti nei quali abbiamo la possibilità di vivere la Chiesa nelle relazioni intime, strette. Questa settimana, la settimana che ci sta davanti, è la settimana dei gruppi, partecipa al gruppo. Lasciati invitare a questa opportunità di apertura, di richieste di preghiera, di soccorso gli uni nei confronti degli altri. E voglio, come dicevo, ringraziare tutti i responsabili dei gruppi che anche in questa stagione si stanno dando da fare. Io voglio benedirti, voglio davvero esprimere tutta la mia gratitudine. Sono così grato a Dio che come Chiesa non ci siamo mai limitati solo all'incontro domenicale, perché in questa stagione sarebbe stato deleterio. La Chiesa è molto più dell'incontro domenicale. La Chiesa è vivere relazioni sane dove Cristo è al centro durante tutto l'arco della settimana. E quindi io voglio ringraziarti e voglio benedirti, e se mi permettete io voglio fare in questo momento una preghiera per tutti i responsabili dei gruppi, che in questo momento possano ricevere una particolare forza, un particolare stimolo, un particolare incoraggiamento per questa stagione, che Dio possa ungerti, che Dio possa darti nuove forze, nuova ispirazione per il gruppo che ti ha chiamato a guidare. Padre, io prego per ogni capogruppo in questo momento, io prego con la Chiesa che è connessa a me, sono convinto che si unisce con me in questa preghiera, io prego che ogni responsabile dei gruppi possa essere unto da te, rinvigorito alla tua presenza e ispirato nel guidare il gruppo in questa stagione così diversa. Grazie Padre per i gruppi di cui facciamo parte, e vuoi tu renderli sempre più contesti dove si esercita la maturità dell'essere gli uni a fianco agli altri, pregare, piangere, ridere insieme, adorarti, digiunare, soccorrerci a vicenda, ascoltarci e continuare a camminare in ogni stagione, in unità, di gloria in gloria. Nel nome di Gesù faccio questa preghiera per ogni gruppo della nostra Chiesa. Amen. Amen. Il secondo aspetto, e con questo voglio concludere, che ci invita l'Ecclesiaste in ogni fase della vita, in tutta la nostra vita, è quello di vivere la costanza nella fede. Se il primo aspetto è vivere relazioni sane, un altro aspetto per attraversare ogni tipo di stagione, ogni tipo di tempo nella nostra vita, è la costanza nella fede. Vedete come conclude il libro dell'Ecclesiaste. Se non volete deprimervi, vi invito a non leggere il libro dell'Ecclesiaste. Se siete pronti ad accogliere questa sfida, allora leggete Ecclesiaste, però considerate la conclusione di questo libro, perché dà un'immagine completamente diversa e riscatta tutto il discorso mettendolo nella giusta chiave e facendoci comprendere che sì, è vero, è una vanità affannarci in questa vita, è una vanità ricercare la carriera, è una vanità ricercare le ricchezze, ma c'è qualcosa per la quale vale la pena spendere le nostre vite, ed è il timore del Signore, vivere nella relazione con Lui e cercare di vivere nella nostra quotidianità tutti i Suoi comandamenti. Infatti in Ecclesiaste 12, versetto 15, leggiamo questo: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. La conclusione di tutto il discorso è questa: temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Meraviglioso, ve lo rileggo. Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Nel leggere l'Ecclesiaste, se arrivi a domandarti, perché arrivi inevitabilmente a domandarti che senso ha la vita, che senso hanno le giornate, che senso hanno le stagioni, che senso ha la mia fatica, che senso ha il mio lavoro, che senso hanno i miei sogni, le mie aspirazioni. Beh, in questa conclusione trovi la spiegazione. Il tutto per l'uomo è investire la propria vita per cose che hanno un peso e una durata e un valore eterno. Ciò che ha valore eterno è ciò per il quale vale la pena vivere e anche morire. Temere Dio. Temere Dio. Essere sottomessi a Lui. Lasciarsi guidare da Lui. Inginocchiarsi, come abbiamo fatto insieme stamattina. Sottomettersi a Lui. Rispondere ai Suoi comandamenti. E vi ricordate Gesù che riassume tutti i comandamenti della parola di Dio? Del Vecchio Testamento, tutta la scrittura, lui la riassume con il comandamento: ama il Signore Dio tuo. Qual è il comandamento di Dio per noi? A volte quando ci troviamo davanti a queste parole, no? Temere Dio, rispondere ai Suoi comandamenti, ubbidire, no? Ci sembra che tutto è così gravoso. Beh, Gesù lo racchiude in questo grandissimo, meraviglioso comandamento: ama Dio, amalo con tutto il cuore, vivi una relazione con Lui. Quando ami Dio, sei disposto a rinunciare alle cose. Quando ami Dio, sei disposto a ubbidire, a sacrificarti per quello che Lui ti dice attraverso la Sua parola. Quando ami Dio, sei disposto a tutto. E quando ami Dio, vivi il Suo amore, e il Suo amore ti costringe a vivere il secondo grande comandamento, che è: ama il tuo prossimo come te stesso. Vedete che torna a avere relazioni sane. Non vivere la solitudine, ama il tuo prossimo. Questo è il tutto per l'uomo. Il tutto per l'uomo è investire una vita nell'amore, è investire la vita terrena nell'amare Dio e nell'amare gli altri. Amare chi è facile da amare, amare chi è difficile da amare, amare chi sta vivendo una stagione facile, chi sta vivendo una stagione difficile. Amare chi ti aiuta nella tua stagione difficile, amare anche chi non ti aiuta nella tua stagione difficile. amare chi ti è vicino e gioisce delle tue vittorie, amare anche chi è geloso e invidioso delle tue vittorie, amare tutti, sempre, costantemente, in ogni condizione. Questa è la volontà di Dio. E quindi qual è questo secondo aspetto che ho condiviso con voi? La costanza della fede. Perché parlo di costanza? Perché, vedete, questo aspetto è molto ricorrente nella vita dei credenti. Cioè, il fatto che alcuni di noi, tutti noi, viviamo il fatto che ci avviciniamo a Dio quando viviamo una buona stagione. È vero? C'è chi, quando sta vivendo una buona stagione, è particolarmente vicino a Dio. Lo serve, ha il desiderio di donare, amare il prossimo, essere ben inserito in chiesa. C'è chi è fedele particolarmente quando vive una stagione facile, però quando poi la stagione diventa difficile, il tempo cambia, c'è una nuova fase, le cose si fanno difficoltose, si fanno pesanti, si fanno affannose, in quel momento si allontana da Dio, si allontana dalla Chiesa, si allontana dalla preghiera, dalla parola, dall'adorazione, dal donare. Ecco, questo è un disequilibrio. Cioè, ci sono altre persone che invece funziona per loro il contrario, no? Quando le cose vanno bene, allora si allontana da Dio, si rilassa, vive meno preghiera, lettura della parola, presenza in chiesa, servizio, donare, amare, quant'altro, no? Perché sta bene, non ha bisogno di Dio, e quando la stagione si fa difficile, allora lì ha bisogno di Dio e si affanna a cercare Dio. Ecco, sia l'una che l'altra situazione, qualsiasi cosa caratterizza la tua vita, io voglio dirti, è sbagliato. Noi dobbiamo vivere costanza nella nostra fede, e le prove della vita, le stagioni difficili della nostra vita, che cosa fanno? Producono in noi costanza, se lo permettiamo. Infatti è proprio quello che leggiamo in Giacomo 1 dal versetto 2, che dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Sii costante in ogni stagione. Prega quando la stagione è facile, prega quando la stagione è difficile. Digiuna quando le cose vanno bene, digiuna quando vanno male. Adora quando adora. Adora sempre Dio, come dice il salmista: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, in ogni fase. Non adorare Dio solamente quando le cose vanno bene, quando hai avuto un successo, quando le cose vanno nel verso giusto e hai avuto una risposta da Dio. Adora Dio anche nella stagione difficile, anche quando sei in prigione, come hanno fatto Paolo e Sila, o viceversa, se sei più tendente ad adorare solamente quando le cose vanno male e ad adorare poco quando le cose vanno bene. Cambia questo la costanza. Dio ci invita ad avere vite di costanza, perché la costanza produce perfezione, la perfezione ci fa essere completi, integri e beneficiari di ogni benedizione che Dio ha per noi. Dio vuole che tu viva una vita di costanza nella fede, non in alti e bassi, non in virtù della stagione che stai vivendo e delle circostanze e delle fasi che ti ritrovi ad attraversare, ma in ogni fase, in ogni circostanza, in ogni stagione, essere sempre costante nella preghiera, nell'adorazione, nel tuo dare, nel tuo servire, nel tuo essere partecipe alla Chiesa, nel tuo essere a servizio degli altri. In ogni cosa Dio vuole costanza per la nostra vita. Io voglio concludere con questo, voglio concludere con un invito a ciascuno di noi a prendere in seria considerazione come può migliorare le proprie relazioni ed elevarle a una condizione che ti portano a maggiore santità, a maggiore ricerca di Dio in ogni stagione. E voglio invitarti a considerare come puoi essere più costante in ogni stagione che stai attraversando. Voglio pregare per ciascuno di noi, qualsiasi sia la tua richiesta, e poi avrete modo anche durante la settimana nei gruppi in casa di pregare per questi due aspetti. Voglio chiederti in questo momento di chiudere i tuoi occhi e abbassare il tuo capo, vogliamo cercare insieme la presenza di Dio e chiedere il suo intervento. Quando siamo riuniti qui come Chiesa, solitamente per capire anche per chi sto pregando, faccio alzare la mano. Ora non avrebbe senso per vederlo io, ma ha comunque senso per mostrarlo davanti a Dio. Quindi se tu in questo momento riconosci che il tuo punto debole è vivere la solitudine oppure vivere compagnie che non sono sante, che non ti guidano alla santità, e vuoi migliorare questo aspetto nella tua vita, vuoi ricercare saggi, vuoi ricercare compagnie sane che ti portano alla santità, vuoi migliorare le relazioni che tu hai per portarle dalla critica al mormorio invece ad essere edificanti, incoraggianti, allora dove sei? Ti chiedo di alzare la tua mano in questo momento e voglio pregare per te. Pare tu vedi queste mani alzate, questi cuori arresi. Vogliamo vivere in ogni stagione l'opportunità di rafforzare i nostri vincoli relazionali all'interno della Chiesa, fra fratelli, fra sorelle, in modo tale che queste relazioni ci portano a crescere, in ogni tempo, in ogni stagione. Aiutaci ad essere promotori di relazioni sane. Io sono qui con la mia mano alzata e prego per me stesso e prego per chiunque con me in questo desiderio. Aiutaci a essere promotori di relazioni che si elevano a edificazione, a santità e a saggezza. Voglio chiederti se il tuo desiderio è vivere costanza nella tua fede in questo momento. Allora alza la tua mano e voglio pregare per te. Oh Padre, grazie perché tu vuoi mettere costanza. Tu hai voluto parlarci stamattina perché tu desideri farci essere degli alberi ben piantati, radicati presso i ruscelli di acqua per portare frutto nella stagione opportuna e avere del fogliame che è sempre verde. Io voglio pregare per costanza per chi si sente debole in questa stagione. Io ti prego per il vigore nella preghiera, il vigore nella lettura della parola, il vigore nel digiuno, il vigore nell'adorazione, il vigore nell'amare, nel servizio, nel donare. Io prego per vigore e costanza in ogni stagione. Che non siano le circostanze, le stagioni a determinare la nostra stabilità spirituale, ma che la nostra spiritualità salda, radicata e costante possa piuttosto scardinare la forza delle circostanze che vengono per abbatterci e per destabilizzarci. Nel nome di Cristo Gesù, prego in questo momento per ogni persona che ha la sua mano alzata, che possa tu stesso dare costanza in questo tempo, nel nome di Gesù. Voglio ancora pregare per chi questa mattina, seguendo questo messaggio, dice: io voglio arrendere il mio cuore a Gesù. Forse ti sei imbattuto in questo link, ci stai seguendo per una casualità o perché qualcuno te l'ha mandato e hai il cuore desideroso di vivere di più quel Dio che vuole benedirti, quel Dio che ti vuole dare una vita che ha senso, che ha scopo, che ha proposito, che ha degli obiettivi chiari, che ha la capacità di affrontare ogni stagione, anche la più difficile, con gioia, sicurezza e pace nel proprio cuore. Dio vuole darti questo. La sua compagnia è la migliore delle compagnie e Lui vuole esserti amico, Lui vuole esserti pastore, guida, Lui vuole essere il tuo padre, Lui vuole essere il tuo fratello, Lui vuole essere il tuo conforto e la tua consolazione, il tuo sostegno, il tuo aiuto in ogni stagione. Quindi se questo è il tuo desiderio, ti chiedo di chiudere gli occhi in questo momento e di alzare la tua mano e voglio guidarti in una preghiera. Piuttosto che pregare solo io per te, voglio chiederti di fare questa preghiera a Dio, di farla tu, ripetendo con me queste parole. Ripeti con me: Signore Gesù, ti invito ora nel mio cuore, perdona i miei peccati e dammi un nuovo inizio di vita. Sii protagonista di ogni mia stagione. Metti in me pace, metti in me vita, metti in me gioia. Ti invito nel mio cuore, ti invito nella mia vita. Amen. Amen. E se hai fatto quest'ultima preghiera per la prima volta, noi vogliamo aiutarti a continuare a camminare con Dio, a crescere nella conoscenza della Bibbia, della sua parola, a conoscere di più questo Gesù che è presente, che ascolta, è vivo e che parla e che puoi sentire nella tua cameretta, che puoi sentire quando ti fermi a cercare la sua presenza. Lui vuole parlare proprio a te, vuole guidare le tue giornate e siamo così entusiasti di poterti aiutare in tutto questo, in quello che Dio ha dato a noi di poter vivere già da tempo e che ora vuole invitare te a vivere. Quindi puoi scriverci nell'indirizzo email, puoi contattarci attraverso il numero telefonico. Credo che tutto questo è già in sovraimpressione ed è proprio lì per darti la possibilità di entrare in contatto con noi e continuare a camminare di gloria in gloria, di bellezza in bellezza, di vita in vita ancora più abbondante con noi e con Gesù soprattutto. Vogliamo adorare il Signore insieme, vogliamo vivere un tempo di adorazione e in questo tempo magari puoi fare la tua preghiera a Dio continuando a meditare su quanto Lui ha voluto dirti stamattina.